Tobia e la volpe. C'era una volta un vecchio di nome Tobia che fumava i passerotti e cincischiava le carote e a volte si alzava e masticava del tabacco. Una sera, verso il tardi, si svegliò e si trovò con la luce accesa. «Muoio, muoio», pensò, e corse verso la finestra per assorbire una boccata d'aria. Di giorno si alzava e indossava un pigiama lucente, come le carpe. Venne a trovarlo un amico e così gli parlò. «Tobia, Tobia, che fai, dormi?» Tobia si alzò e rispose: «Non lo so». Poi si accorse di essere sveglio e disse: «Non sono un sonnambulo». «Caro Tobia, ci sarebbe un grosso affare da fare». «Che cosa?» «Molto lontano di qua, in mezzo agli irti monti, ci sta una volpona che ha perso i suoi volpini. E la volpona, a chi ritroverà i suoi bambini, darà in premio un grappolo d'uva del vigneto dorato». «E beh?» «Tobia, devi sapere che chiunque possieda questo grappolo, spiaccicando, ne ricava vino delle migliori qualità, facendo la felicità di tutti gli ubriaconi più esigenti, senza per questo distruggere il grappolo, che può servire per un'altra vendemmia. Il nettare esce dagli acini, ma gli acini non si schiacciano, e alla fine uno si ritrova con vino e grappolo in mano». «Mi sembra strano ed impossibile», fece Tobia. «Ma tu non conosci le volpi, Tobiolo. Quanto queste bestiacce la sappiano lunga, rubano dappertutto, e nelle loro tane si trova ogni ben di Dio». «Non lo so, non saprei. Forse però... Non fare il fesso, su, Tobia». Tanto disse e tanto parlò che Dondolo, così s'appellava l'amico, lo convinse. Raccolsero tutti i loro stracci e partirono. Calata che fu la notte, Tobia mormorò: «Ma come riusciremo a trovare i piccoli?» «Interrogando il pozzo del pazzo», bisbigliò Dondolo. «Il pezzo di pazzo?» «No, il pazzo del pozzo!» Andarono dunque nel pozzo e vi trovarono un pazzo tutto di un pezzo con due volpini di pezza. Nella pezza del pozzo il pazzo stava canticchiando e contrattarono con lui. «O pazzo, se ci dai le due volpine di pezza noi ti diamo un po' d'acqua da mettere nel pozzo». E il pazzo del pozzo rispose: «Che me ne faccio dell'acqua senza una pezza d'appoggio? Pazzo di pezza che stai nel pozzo, l'appoggio di pezza noi ti daremo in cambio dei pezzi di pezza». Nella pezza del pozzo il pazzo nicchiava, ma vista la pezza d'appoggio si decise ad uscire dal pozzo e a consegnare le volpine di pezza nelle mani dei due amici. «O pazzo da un pezzo, ritrova nel pozzo la pezza di pozza d'acqua che noi ti lanciamo e ti ringraziamo per le volpi di pezza che ci hai donato». La pozza del pazzo calò sul pozzo e da quel giorno tutti la ricordano come il pozzo pozza del pezzo di pazzo. Salutato il pazzo di pezza del pozzo di pozza, di corsa si precipitarono dalla vecchia volpe nel bosco argentato. La volpe stava malata, con un grande paio di occhiali sulla fronte. Bisogna sapere che per quanto furba e decrepita la volpe era quasi cieca. Or dunque che furono alla sua fatiscente presenza, i due furbastri esclamarono: «Cara vecchia volpe, dacci oggi il nostro grappolo quotidiano e non ne parliamo più. Mi avete riportato i miei bambini?» «E come? Eccoli qua!» E mostrarono le volpine di pezza. «Fatemeli vedere più da vicino». Ai due amici venne il batticuore e la cagarella. Se la volpe si fosse accorta dell'inganno, non avrebbero avuto scampo. La volpe però era una vecchia strega e possedeva molti poteri magici. Avvicinarono le due pezze avute dal pazzo del pozzo agli occhi spenti dell'astuto animale, con mani sudate e tremanti. La volpe, però, vecchia e cieca, non s'accorse dello scambio. Bravi, avrete il grappolo magico. Ed estrasse dal giaciglio di stracci un grappolo enorme e dorato. Presa l'uva, Tobia e Dondolo si allontanarono in gran fretta. Tanta era stata l'emozione, tanta era stata la paura, tanta era la premura, che sbagliarono strada e si spersero nel bosco. Venne la notte, con il suo sorriso filiforme, e avvolse di coriandoli di buio e di tenebre i due fedifraghi. Questi, affamati e stanchi, infreddoliti e scalzi, si accasciarono sopra un cespuglio di rovi e cercarono di riprendere le forze. Al mattino, stringendo forte le ortiche tra le mani e fra i denti, ripresero di nuovo il cammino e strisciando i piedi insanguinati, laceri e sporchi, cercarono di ritrovare la strada. Passarono giorni e giorni, notti e notti, e videro luna dopo luna, stelle dopo stelle, sole, farfalle, comete, satelliti, meteoriti, grosse ragnatele, funghi al funghetto, cipolle, cipolline soffritte con la pancetta, senza cibo, fralti, bei urloni, strilli, strilloni, strillacci, edicolacce, roveti, cipigli, cespugli, cigli di cespi e crepe di ciglie, more e lamponi, fulmini e abracadabra. Un bel giorno, sfiniti, disperati e affranti, decisero di mangiarsi l'uva. «Non saremo mai più ubriachi per tutta la nostra vita», borbottò Tobia. E con un fil di voce Dondolo: «Tobia, meglio che essere morti». Pappati che si furono gli acini, ripresero le forze e in un battibaleno, estemporaneamente, si ritrovarono a casa fra gli amici e i parenti. Raccontarono le loro vicissitudini, ma nessuno gli credette. E vissero per sempre, sobri e felici. «E i piccoli volpini?» domanderete. «Beh, chi li trova, li porti lui stesso alla volpe, e ne avrà in mercede grappoli magici in quantità. Ma stia bene attento a non barare, perché la furba furbona sta in campana e non la perdonerebbe».